GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12.15, ancora buona giornata, buona domenica da Giampaolo Mauro. Infortuni sul lavoro in primo piano in questa breve edizione meridiana. Gli ultimi dati sono stati resi noti dall'ANMIL e dicono che nei primi due mesi dell'anno c'è stato un significativo incremento delle denunce in regione, quasi l'8%. Scendono invece le malattie professionali. Andremo a Casarsa per la Sagra del Vino, una delle manifestazioni più importanti del settore in regione. L'export è ancora condizionato dalla questione Dazi. Poi lo sport con il basket di A2 e i risultati della Muia Longa sul Mar e del triathlon di Lignano. In apertura dunque ci occupiamo di infortuni sul lavoro in vista della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro che si celebra domani. L'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro ha pubblicato un focus nel quale sono evidenziati anche i numeri più aggiornati sugli infortuni e le malattie professionali basato sui dati INAIL. In Friuli Venezia Giulia fra gennaio e febbraio 2025 gli infortuni totali denunciati sono stati 2527, quasi 200 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento del 7,9%. È il secondo incremento più significativo in Italia, subito dopo quello del Trentino, che evidenzia un più 8,1% e prima del 7,7% evidenziato dal Molise. A livello nazionale gli infortuni totali sul lavoro sono scesi nei primi due mesi dell'anno circa del 3,5%. Nel 2024 la situazione era rimasta quasi stabile rispetto all'anno precedente, con circa 15.800 infortuni denunciati in Friuli Venezia Giulia. Quanto alle malattie professionali, nella nostra regione nei primi due mesi dell'anno sono diminuite del 17,5%, da 375 a 309, a fronte di un aumento a livello nazionale che sfiora invece il 6%, trainato dai dati del Molise più 59%, del Trentino più 42% e della Basilicata più 38%. Ripercussioni sul traffico sull'autostrada A4 questa mattina fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia per l'uscita di strada di un mezzo pesante, forse per un colpo di sonno o un malore del conducente. È accaduto fra lo svincolo di Palmanova e l'intersezione con la A23. Non sono stati coinvolti altri veicoli e la viabilità non è stata interrotta, ma per buona parte della mattinata ci sono stati rallentamenti e code di alcuni chilometri. È stata inaugurata ufficialmente a Casarsa la 77esima Sagra del Vino. In 12 giorni ospiterà 110 eventi grazie al lavoro di 500 volontari. Tra i numerosi produttori pesa però l'incognita Dazi. Ne abbiamo parlato con Flavio Bellomo della cooperativa La Delizia. Qui da Dazi chiaramente le ripercussioni noi le vediamo su un discorso di economia globale. Quindi quelle sono le preoccupazioni maggiori di tutto il settore. Per quanto riguarda il nord-est, chiaramente le due varietà principali che vengono esportate sono il pino grigio e il prosecco, e quindi sono le due varietà che eventualmente potrebbero avere maggiore ripercussione da decisioni politiche del genere. Per quanto riguarda la nostra realtà, l'esportazione che abbiamo verso gli USA è molto importante perché vale quasi il 60% del nostro fatturato, quindi una trentina di milioni di euro. Per il momento non abbiamo visto grossissime ripercussioni perché abbiamo un dialogo costante con i nostri clienti, ma per il momento tutto è abbastanza tranquillo. Sia noi sia i nostri collaboratori statunitensi siamo un attimino in attesa di capire quali possono essere le decisioni future che verranno prese. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Cordenons, ultima giornata per la rassegna Salotto del Gusto che in Piazza della Vittoria propone le eccellenze del territorio, dagli asparagi alla trota iridea. A Sutrio invece cose buone per gli appassionati di affumicatura, non solo i prodotti della norcineria carnica ma anche ricotta, verdure, selvaggina. A caccia di rifiuti alla tisana lungo l'argine del Tagliamento, protagonisti dell'operazione ecologica, coloro che questa mattina hanno aderito all'iniziativa della Onlus Plastic Free che si è svolta in diverse località italiane. Ma come si può ridurre il nostro consumo quotidiano di plastica? L'abbiamo chiesto a Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. Ci sono diversi modi, sicuramente si può partire dalla propria abitazione, ad esempio con un purificatore a casa, depuratore d'acqua, si possono risparmiare tantissime bottiglie di plastica. Poi si può passare in bagno, dove utilizziamo sicuramente saponi di ogni tipo, shampoo, bagnoschiuma, e lì oggi c'è una grande varietà di saponi che sono solidi con il bollo in carta e si risparmia il flacone in plastica. Poi nella vita di tutti i giorni, anche andando a fare spesa, molto spesso ci troviamo ad fare spesa nel centro commerciale, quindi nel supermercato, e portandoci con noi una busta non di plastica, quindi riutilizzabile, possiamo risparmiare tanti sacchetti di plastica. Questi sono tre consigli che possiamo davvero ridurre l'impatto della plastica. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo ce lo dà Sereno a Coperto sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 11, a Trieste 18 gradi, a Udine 20, a Pordenone 19,5, a Gorizia 19. Nell'area montana Tolmezzo 18, a Tarvisio 11 e 5 decimi, a Sappada 10, a Forni di Sopra 12,5, sul Piancavallo 9,5, sullo Zoncolan 5 gradi e 5 decimi, sul Lussari 3 gradi, sulla costa Lignano 20 gradi, a Grado 19 e 5 decimi. Previsione a cura dell'ARPA: sui monti avremo per la giornata di oggi variabile o nuvoloso, in pianura da variabile a poco nuvoloso, sulla costa e bassa pianura orientale cielo da poco nuvoloso a sereno. Nel pomeriggio sulle Prealpi non sarà esclusa del tutto qualche isolata breve pioggia, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata. Alcuni spettacoli di oggi: la fisarmonica di Gianni Fassette, la voce di Carla Manzon per l'appuntamento che chiude il Festival Ponti di Musica organizzato dall'associazione Fa Diesis. L'evento finale è a Gorizia all'Hotel Entourage, su immagini d'epoca provenienti da vari archivi, il racconto di un secolo di storia goriziana. A Zoppola, serata conclusiva del New Jam Music Contest, concorso musicale riservato agli artisti emergenti. Dalle 18 in auditorium comunale si sfideranno i 10 finalisti. È l'anniversario della nascita di Lelio Luttazzi. A Trieste lo celebra il concerto dell'Orchestra Sultanato dal titolo Swing nel giorno di Lelio, in Sala Luttazzi in Porto Vecchio alle 17. E adesso lo sport. Partiamo dal basket. Ultimo turno della stagione regolare in A2 al Carnera di Udine. L'APU, già promossa, ospita alle 18.30 Torino prima della festa bis. Alla stessa ora Cividale giocherà sul campo di Orzi Nuovi. La grande festa per il ritorno in Serie A sarà per tutti. Udine celebra una stagione memorabile e apre la porta ai suoi tifosi. Dopo la partita ininfluente di stasera contro Torino, a caccia invece di un posto playoff, che comunque sarà l'occasione per salutare tanti dei giocatori protagonisti che partiranno dopo il salto di categoria, prima ci sarà la premiazione ufficiale per la vittoria del campionato, poi musica fino a tarda serata e ingresso libero sul parquet con tutti i protagonisti della cavalcata trionfale. Non si chiude oggi invece la stagione di Cividale. Comunque vadano le cose, stasera Orzi Nuovi, la squadra di Pillastrini è qualificata per i play-off che assegnano la seconda promozione senza passare per il torneo preliminare dei play-in. Una battaglia estenuante di scontri diretti nel giro di 4 giorni. Vincere in casa della già salva squadra lombarda però è importante per la posizione in classifica. Con un successo Ducali almeno sesti, in caso di sconfitta di una tra Forlì e Rieti i gialloblu guadagnano il fattore campo nel primo turno, che praticamente in ogni caso sarà o contro i laziali o proprio contro i romagnoli, entrambe squadre attrezzate con ambizioni. In A1 invece la Pallacanestro Trieste recupera domani la sfida a Cremona. La squalifica del campo di casa di 2 turni, confermata per ora, può essere benzina per riaccendere il motore dopo 2 brutte sconfitte nelle ultime partite. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la A2 femminile da ricordare anche l'impegno del Futurosa Trieste a San Giovanni Valdarno nella gara 3 dei quarti di finale. L'accesso dunque in palio è quello alle semifinali, si gioca alle 15. E Job Faniel, ex primatista italiano della maratona, ha vinto la Muia Longa sul Mar, classica sui 10 km che si è disputata questa mattina. Il suo tempo 29 minuti e 5 secondi, superiore al primato della corsa dello stesso Faniel, ma oggi bisognava fare i conti anche con la bora contraria nella seconda metà del percorso. Alle spalle di Faniel il burundiano Luis Intunzinzi 29 minuti e 13 e il keniano Stephen Mawangi 29 e 47. Tra le donne, successo della keniana Celangatti in 33 minuti e 29 secondi davanti alla slovena Clara Mocnik e a Francesca Vassallo. Alla corsa hanno partecipato 700 concorrenti, mentre in 1800 hanno preso parte alla Family Run. Doppia vittoria della Jesolo Triathlon alla gara sprint di Lignano Pineta questa mattina. Trionfo tra gli uomini per il trevigiano Marco Lorenzon con il tempo di 55 minuti e 56. Decisiva la fuga nel tratto di bicicletta che gli ha garantito il giusto margine per la parte di corsa. Secondo posto per Stefano Degano del CUS Udine. Terzo Diego Lampe della Verona Triathlon. Tra le donne, netta affermazione per la veneziana Ilaria Zane con un'ora, 1 minuto e 43 secondi. Seconda Elisa Marcon del CUS Pro Patria Milano. Terza Eleonora De Marchi della K3 Cremona. Alla manifestazione dedicata a Renzo Ardito hanno partecipato in circa 300 atleti anche di livello internazionale. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Sono le 12 e quasi 26 minuti, prossima edizione alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione, ancora buona domenica, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.